buono mettere la musica, stavo ascoltando anch'io. Ciao Marco. Ciao Giulio, roba tua era? No, non è roba mia, non canto io. E vabbè, nel senso, ho mandato a te, buonasera a tutti. Ma non c'è nessuno stasera per questo. Ho cercato di svegliare qualcuno, sì, l'ho messa io, la mio fratello che stava cantando. Sì, stasera tutti in letargo. Sì, ma dove siamo qua? Qua vedo memoria 2, il 23 è questo, perché sono in modalità memoria, non canali. Sì, il 23 è questo, sì, 27.255. Sì, a chi interessa, da Lidl la settimana prossima vendono il pulsossimetro, quello che si mette al dito e dà la percentuale di ossigenazione del sangue, 19.99. Ok, ho capito. Vabbè, può essere uno strumento utile, perché no? Bene, no, ma dalla via da Lidl tante volte ci sono delle cose interessanti, solo che una volta ho comprato il saldatore e non serviva niente, una porcheria, fatto il buttato. Eia, Gianni ha fatto capolino e è andato via. Sì, mi sto guardando le offerte della prossima settimana, cose carine. C'è anche quel regisaldatore con lente, con le pinzette, quello col basamento pesante, mi pare, per saldare meglio. Quello che ho perso io, ho detto tra noi. Ce l'ho io, ce l'ho da tanti anni quello. La lente, piccolina, e poi ci sono i corsi, come si chiamano? Ma le pinzette, ma hanno un nome specifico, non me lo ricordo. Ah, i coccodrilli. Esatto. Io ce l'avevo, era comodo, soprattutto per gli spinotti microfonici, poi ne ho trovato un pezzo da una parte, un pezzo all'altra, boh. Poi ci ha giocato il gatto, me l'ha disintegrato. Io ce l'ho sempre, no, ma ho un altro attrezzo io. Ho un altro attrezzo e uso quello, no? Non è un problema, quello praticamente lo uso qualche volta, ma raramente. Che poi ormai non è che sto facendo più niente di saldature, così qualche piccolezza, ma niente di più. Prima sì, quando ero più giovane, stavo giornate intere attaccato al saldatore, per carità, che malattia. Ehi, già, t'avevamo rilanciato, forse ti eri assentato un attimo. No, ti spiego. Mi sono addormentato a petto nudo e mi sono alzato con il freddo e mi sono andato a infilare il pigiama. Tanta roba, adesso non c'è più il tempo di prima, si è abbassata la temperatura di prima. C'è un po' i brividi. Sono andato a mettere qualcosa sopra perché non avevo... E lascia perdere già, io ieri ho preso tanto di col freddo in casa che non hai idea. Ero in pantaloncini e magliette e avevo veramente freddo, avevo i piedi ghiacciati, sono stato dalla mattina fino alla sera in quelle condizioni. E siccome non mi sentivo bene tanto, dopo mi sono coperto bene, ho mangiato e mi sono preso un'aspirina da 500 mg, c'è una bella overdose di aspirina per sicurezza. E non è successo niente per fortuna. Ciao Giulio, che a te, buonasera. Anche io ieri mi sono alzato male, vedevo tutto girare, non riuscivo a reggermi in piedi, quando mi sono alzato ho fatto un giro. Ho chiamato a Marco, a mio figlio, è venuto, mi ha dato la macchietta, la pressione, c'avevo la pressione bassa. Non capisco da che cosa, però mi si è abbassata la pressione a 78. Immaginati, vedevo tutto girare. Ma la massima, caspita, massima 78 è bassa, porca miseria. Ehi, adesso mi ricontrollo l'altro catalogo, c'erano cose arretrate dovevo pigliare, ma un sacco di roba bella hanno da Lidl, anche per chi fa hobbistica, un sacco di attrezzi da casa. Vabbè, non è il mio caso, che non ho nemmeno lo spazio. Una volta avevo uno stanzino adibito a... così per fare roba, piccolo bricolage, poi tutto il malore è andato. Dai, riprendete voi, rimango all'ascolto che devo scaricare l'altro catalogo. Vai Giulio. Ok, ciao Gianni. Io so, a me mi ha bloccato il questo accidente del coronavirus, adesso non sto più uscendo, esco solo in caso di necessità proprio che non ne posso fare a meno. Se non prima uscivo tutte le mattine, mi divertivo almeno la mattina, me ne andavo in giro, mi incontravo con amici, oppure me ne andavo in magazzino e mi giocavo, per così dire, dai, tante cose, ma ormai mi ha bloccato veramente questo accidente del virus. Speriamo che finisca presto, se no, se continuiamo così, grazie, ci viene la depressione già. Io guarda, ho sentito su internet che stavano dicendo che se continua così, se aumentano i casi, sono costretti di nuovo a chiudere di nuovo tutto. Ma la gente secondo me non c'ha un po' di testa, cazzo. Io li vedo tutti, se io quando esco anche col cane all'aperto me la metto la mascherina lo stesso, non mi interessa. Non so se dà fastidio quello che vuoi, però se devi metterla devi metterla, c'è poco da fare. Se dice, ha detto all'aperto, non dice dove ci sono assemblamenti o cose del genere, dice all'aperto. Molta gente interpreta male questa frase, tant'è vero che l'altro giorno mi hanno fermato le guardie, non le guardie zuffe, come si chiamano, là, i baraccini. Erano tutti e due senza mascherina. Mi hanno detto, posso farmela un'osservazione? Sì. Come non ci avete la mascherina voi? Così gli ho detto. Perché si mette solo dove ci sono assembramenti, no? Non ha detto così. Ha detto che bisogna metterla all'aperto. Prima era aveva gli orari, dopo hanno detto di metterla sempre, ogni qualvolta si esce di metterla. E loro hanno detto no, noi abbiamo capito così. Poi. Chi è che ha fatto capolino? Manuele, sei tu? Con la nessuno, c'è poco veloce. E c'era una signora senza la mascherina. Signora, metta la mascherina per cortesia. Poi ce l'ha messa, poi si è allontanata. Dopo un po' è ritornata, tutta incavolata, che lì aveva i suoi, che aveva gli anticorpi, che non era il caso che ci mettesse la mascherina. Ascolti, lì avrà pure gli anticorpi, però anche molta maleducazione, gli ho detto, perché se dici qua d'attorno, tutte le persone che ci sono qua, che ci sono centinaia di persone, visto che è sabato e tutti stiamo facendo la spesa, tutti hanno la mascherina, l'unica che dice è lei. Ma quando mai una persona adulta come lei deve comportarsi in questo modo? Che me ne frega a me se lei ha niente colpi? Lei ha solo maleducazione nella mente, gli ho detto. E io che sono molto pignolo in queste cose, l'altro giorno sono andato da Deltaflon e c'era la vetrina dove vendono i vermi per andare a pescare. E c'erano questi due signori e la commessa che stava facendo vedere i vermi ed erano tutti e tre attaccati. Io ho dato una sbirciata per vedere i vermi se erano birdi, perché li stavo cercando per andare a pescare. E questa qua si è girata come un'ossessa, mi ha detto, lei si deve allontanare, lui è mio marito, posso starmi vicino. Ho detto, sì, ma la commessa non è suo marito, e lui è attaccata alla commessa, se ne basta di mezza. E infatti, è fatto bene a riprendere in quel modo. Questa gente imbecille, ragazzi, sarebbe stato finito tutto adesso se si fosse comportata bene la gente. Invece qui vi sono questi amministratori di merda che abbiamo, ragazzi, che hanno rovinato tutto, prendo ad esempio le discoteche. Aspetta, adesso stanno cominciando già a chiudere anche le scuole. Nemmeno aperte stanno già chiudendo le scuole. Poi vogliono aprire gli stadi. Ma quando mai? Tutto quest'anno, ma non adesso che ormai ha ripreso il Covid di Ara Grande, ma già quando eravamo a livello free, dovevamo continuare per tutto l'anno almeno, chiuso, ma quando mamma dice l'economia, l'economia è un piffero, se tu muri, che cosa te ne fai dell'economia? Allora, cosa te ne fai a avere soldi in tasca se poi muri? Ecco qual è il discorso, siccome sono imbecilli questi che ci stanno amministrando, che hanno dato la prevalenza al denaro anziché alla salute, disgraziati, deficienti, da merdosi che non sono altri. Prec. Avanti! Oh, ma mi sentite? Sì. Quando andavo a una, un 500 mW, è possibile? Mi sentite da te? C'è Santiago 95 qua. Oh, pensavo che non mi sentisse nessuno. Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Sacco. Giulio, tu non mi senti però? Sì, ti sento, Santiago 6 e mezzo. La radio è buona, buonissima. Ti sento, ci sento, Gianfra, ciao. Santiago 9 qua. Sì, però, quindi anche con 500 miglia, anche di meno. La potenza è zero, neanche me la segna. Strano, no? Quindi la Game Master, nonostante tutto, riesce ad andare anche con potenze veramente basse. Ma neanche la segna, va. Meglio così. C'è anche Marco. Ciao, avanti Marco, dai, riprendi tu. Sentivo che vi stavate scaldando un po' tutti. E oggi Giulio c'ha il dente avvelenato con questi che se ne fregano un po' delle regole Covid, e se non stiamo attenti torniamo in lockdown. Gianfra, io ho fatto una prova con 100 milliwatt, avevo messo tutto al minimo, più ho usato il riduttore di potenza della ZG, erano 100-150 milliwatt, a Sassari mi sentivano tutti. Sì, ma tieni presente che io con Giulio ad esempio siamo super coperti da Monteoro, pensavo di andare molto spesso, invece va bene, meglio così, no? Così trovo anche tranquillo, non c'è preparazione. Giulio, non ti devi arrabbiare, lo sai, sì. Ma è chiaro che ti devi incavolare, ragazzi, ma quando mai nella vita ci devono essere delle persone così imbecilli? Perché è a discapito di tutti, ma se hanno voglia di ammazzarsi, che si ammazzano da soli, non c'è bisogno che coinvolgano anche gli altri, quelle persone con la testa attaccata alle spalle, è una cosa incredibile, ragazzi, no, non è possibile, non è possibile, l'italiano, io generalizzo, è un popolo di deficienti, veramente, guarda. Va bene, comunque, facciano quello che credo. Avanti già. Facciano quello che credono, no, perché poi ci facciamo anche noi giù. Meglio bloccare certi tipi di persone, ma ce ne sono che se ne fregano le scatole, se ne stanno vicino a casa, c'è quella, una piazzetta vicino a casa dove sono tutti quanti assemblati, tutti vicino attaccati all'altro, ascoltano musica, fanno e non ne frega nulla, capito? È come se non esistesse questo problema, non hanno capito ancora che è una cosa grave. Ma tu guarda, ad esempio, prendiamo l'esempio adesso della Gran Bretagna, lì ci sono 10.000 sterline di multa per chi non segue le regole. Beh, nonostante tutto il popolo sta protestando che vuole che elimino tutte queste restrizioni, ma quando mai? Dai, non è meglio non parlarne, tanto inutile, non è che cambia niente. Avanti Gianfra. Un attimo, Gianfranco, puoi passare un istante al 10? Sì, come no, solo 10 secondi, questo è confortante comunque, perlomeno per me, perché io credevo che gli imbecilli fossero italiani, ma ultimamente si sta confermando il fatto che non sono solo gli italiani, ma un po' tutto il genere umano che è imbecille, quindi ci possiamo consolare di questo, cosa magra, però è pur sempre una consolazione. E prendi Gianni, ritorno subito, è tutto il 10 di marzo. Via, dai, buona questi greca, siamo qua. E giù, cosa devi fare? L'unica cosa è rattrapparsi in casa, io addirittura me la metto anche per andare in ascensore, molta gente non ci pensa, ma l'ascensore ci vanno tutte le persone possibili immaginabili, e viene quello per portare la pizza, e arriva il parente di quello, l'amico dell'altro, cioè bisogna mettersela, molta gente invece nel palazzo li vedo senza mascherina in ascensore, e dico io cavolo. se capita che c'è il virus, trubili subito. È logico, uno deve stare alle regole, ed è per noi stesso, per il nostro rispetto e per il rispetto agli altri. Per cui la gente si deve mettere in testa che bisogna purtroppo sacrificarsi per un bel po' di tempo per poter eliminare questa situazione, se no questo è un virus che durerà e anni e anni, fin quando non riusciranno a trovare la medicina giusta per eliminarla, il vaccino. Per carità, no, non è possibile. 10.000 sterline, non sto scherzando, 10.000 sterline in Gran Bretagna, la città, per chi non mantiene le regole. Nonostante tutto, il popolo fa manifestazioni che vuole che tolgano queste restrizioni. È lo stesso discorso vale in America, è la stessa cosa, anche lì fanno delle manifestazioni contro le restrizioni, un po' dappertutto, insomma, ecco. Adesso intanto già il governatore della Campania ha detto che se continua così stanno già subito chiudendo tutto loro, anche senza la volontà del governo, perché è il governo di Roma che dovrebbe obbligare a chiudere, perché se no non c'è niente da fare, è utile che chiuda la sua regione, che poi la gente si sposta e il virus continua a vivere, o meglio ad esserci. Non è possibile, ma comunque, vai già. Ma il vero danno in effetti è quello, perché malgrado i milanesi abbiano incolpato i sardi, è il contrario, da quando sono venuti loro in vacanza hanno fatto salire il virus in un modo pazzesco. Sono loro che l'hanno portato qua, perché? Perché loro vanno la notte nei locali, fanno questo, fanno l'altro, poi vengono qua a farci le ferie e contagiano gli altri, e poi dicono che sono i sardi che li hanno contagiati, ma non è così. Bisognerebbe chiudere anche le frontiere, perché la Sardegna era arrivata a zero e poi hanno di nuovo ripopolato il virus venendo qua. Infatti sono quei bastardi che sono venuti da fuori, soprattutto in quei villaggi turistici dove ci va la gente ricca, per così dire, o meglio i bastardi, la parte dell'umanità dei bastardi va lì in quei posti, perché sono tutta gentaglia, avranno anche i soldi, d'accordo, tutto quello che vuoi, prima di tutto perché vengono qua a portare tutta la sfuggita di questo mondo, e poi non rimane niente qua, perché anche i dipendenti si portano da fuori qua, ma qui cosa ci rimane? I soldi qui non ci rimangono, gli incassi che fanno, soprattutto quel bastardo cornutone del Briatore, fa caridare, no, guarda, è una vergogna. Hai visto Berlusconi, di nuovo positivo, e anche lui probabilmente lo recuperano di nuovo, perché no, evidentemente non era guarito bene, oppure se è andato in giro, come è sempre in giro, e sarà ripreso magari il contagio, chi lo sa, boh. Io i soldi, la città, è proprio vero, la città, che i soldi ne hanno tolto gli occhi a Santa Lucia, proprio vero, quando dicevano una volta gli anziani a Sassari, i lì di nanna li gavano gli occhi a Santa Lucia, così dicevano una volta gli anziani di Sassari. Sì, lo conosco quel detto, sì. E purtroppo la movida, tutta questa cosa qua, se tu andavi anche a Platamona, la gente era tutta calcata nei locali. Io una volta sono andato a vedere un tributo a un cantante che mi piaceva, c'erano i Queen, eccetera, e erano tutti uno attaccato all'altro, senza mascherina, tutti seduti attaccati a uno all'altro, e chi ballava, chi seduto, io mi sono messo in un angolino con la mascherina, me l'ho ascoltato lo stesso per non avvicinarmi a questa gente. Allora, per non parlare poi del comportamento del governo, anziché comprare i banchi per i bambini a scuola, caspita, ha comprato i monopattini, ha regalato l'incentivo per comprare i monopattini, 140 milioni, 150 milioni ha stanziato il governo. governo per i monopattini, che per questi sono tutti soldi che vanno in Cina, perché quelli sono tutti di produzione cinese, quei monopattini, e i bambini a scuola senza banchi, una vergogna, ragazzi, cioè, questo è il governo italiano, per carità. Ma poi ci sono delle priorità, non so cose essenziali, i monopattini sono anche degli attrezzi che io vedo molto pericolosi, non poco, molto pericolosi, perché ti piombano da tutte le parti, senza casco, senza nessuna... sono mezzi, o se no quelli che camminano su due ruote, non so se li hai mai visti in piedi, cazzo, che ti devi tenere in equilibrio, se tu vai come spingi in avanti va avanti, se vai verso dietro spingi indietro, ma se trovi il fosso, se esci tu è non è monopattino, non so come si chiama, a due ruote, ma se esci tu è l'attrezzo che c'hai sotto, e ce n'è uno vicino a casa che è spavaldo, si prende le borse della spesa, due borse, una da una parte e una dall'altra, e cammina con questo attrezzo qua. Io il giorno che trova un fosso che gli punta la ruota, se esci e li pesa è rugoso. Ma sì, sicuramente, è una vergogna. Ma vedrai che verrà il giorno che sarà obbligatorio anche l'assicurazione per il monopattino, perché sono già successi tantissimi incidenti, e incidenti gravi anche a causa dei monopattini. Gente che ha investito le persone sui marciapiedi, gente che ha avuto lo scontro con le macchine, insomma tutte queste belle cose qua. Che oppure vedrai che metteranno anche l'assicurazione per rubare ancora di più soldi agli italiani. Che vergogna, ragazzi, i bambini senza sedie e senza banche, ragazzi, e le persone adulte, ragazzi, i viziosi, i fannulloni con i monopattini elettrici, ragazzi. Che vergogna, ragazzi. Ma non è possibile, per non parlare poi delle strade, già lo vediamo, tutte le volte che piove si allargano tutte le città, non è che si allarga solo Sassari, si allarga dappertutto in Italia, soprattutto a Genova, a Milano, anche l'altro giorno, tutto da perché non puliscono i tombini, non puliscono niente, non fanno niente, sono una massa di persone che incapaci, assolutamente incapaci di amministrare a tutti i livelli, comunali, regionali e nazionali anche. Vergogna. Vedi, la pulizia dei tombini, perché non la dai a questi che dai il reddito di cittadinanza invece di darglielo gratis? Si fa lavorare, si fa pulire i tubini, mi fai pulire le piazze, le cose, almeno anche una cosa più confortevole per loro, il fatto di guadagnare qualcosa lavorando, invece di fare lasciamo fare, secondo me sono parassiti circhi che vanno a ritirare le piazze cittadinanze. Sono di chi si tucci, di chi si, ne ho visto parecchi alle poste chiedendo quanto mi aspettavo, quanto peso, quanto l'anno, perché ogni volta fanno un resoconto di quello che hanno, capito? Fanno lì alle poste per sapere quanto ci hanno nel conto. Io li avrei fatti lavorare queste persone, non dico tutti perché c'è gente poveraccia che non lo può fare, che è valida roba del genere, ma ci sono i giovani, certi giovani che possono farlo, tagliare l'erba, gli alberi. Adesso vicino a casa c'erano degli alberi di Giulio che sembravano cespugli, toccavano a terra. Quando il cane mi portava mi sbattevo la faccia e ci hanno pensato quelli praticamente del comitato del Monte Rosello, che ci sono delle persone che si associano e puliscono tutto, fanno pulizia, hanno tagliato gli alberi, tu devi vedere che lavoro che hanno fatto, ma veramente è una cosa bella, ne hanno tagliato uno che era proprio, era sgradevole vederlo, guarda. E hanno pulito tutti i giardini, tutto quanto, però poi alla fine si scocciano, perché dice se non partecipano quelli della zona, alla fine noi ci rompiamo le scatole. Sì, cosa vuoi che ti dica già? Anziché fare la manutenzione alle strade e a tutto quello che serve, niente da fare. Adesso sta crollando via del 30, per non parlare poi del fosso della Loce, che che roba di 25 anni fa avevano parlato che avrebbero dovuto fare un canale di scolo per l'acqua e invece non l'hanno mai fatto. Oggi ne stanno riparlando di nuovo, che bisognerebbe fare un canale per gli effluire d'acqua, ma ne avevano parlato 25 anni fa, non ne hanno mai fatto. Già, ecco il risultato di oggi. Come il risultato di oggi, ragazzi, c'è anche la gente che abita lì e vive nel pericolo, perché c'è pericolo in tutti i sensi. Per non parlare pure di Benevento, quando mai quel terrapieno non doveva essere fatto un muro di sostegno come si deve, controllato? E poi le strade si devono controllare sistematicamente. Io sto pensando, chissà quando sarà, magari che ne cadrà anche il ponte a Sassari, per carità, c'è da meravigliarsi, fanno dei controlli così alla buona, ogni tanto lì si fanno vedere che stanno facendo i controlli nel ponte di Rosello. Io avrei voluto vedere io i controlli che fanno, se effettivamente sono controlli che sono seri, oppure se sono controlli così all'acqua delle rose, per carità. Purtroppo è così. Purtroppo è così, c'è molto benefreghismo, poi quando succedono le cose allora si allarmano, controllano tutti i ponti. Adesso, se da quando è successo questa storia del ponte di Genova, tutti quanti stanno controllando i ponti, prima ne controllavano i ma qui in Sardegna ce ne sono diversi punti, tutti pericolanti, e nessuno fa niente. L'hanno fatti vedere in televisione, tutti i muri, la struttura tutta senza intona, con i ferri a vista così, tutti arrugginiti. Ma quando mai, ragazzi? Se continuano così è chiaro che prima o poi il ponte crolla, perché non è possibile poter lasciare senza la manutenzione necessaria. Per carità, caspita, boh. Ma cosa vuoi che ti dica già? La gente dice, ma la fino a futti, no, non è così, no, non è la fino a futti, non è così che bisogna ragionare. Noi ci dobbiamo ribellare, perché se no non cambierà mai la situazione, mai. E se non c'è uno che succede, fino a futti, dopo quando succede qualcosa, di nuovo solo così, vabbè. Tanto è inutile stare a parlarne, oh Giulio, perché tanto chi comanda non siamo noi, nel fatto è quello. Purtroppo non abbiamo voce in capitolo su certe cose. Certo no, e lo so, noi contiamo zero più zero, anzi, lo so, però sono cose che danno fastidio, e loro stanno pensando alla poltrona sempre più comoda. Adesso sono tutti contenti perché sono riusciti ad avere qualche piccolo balzo in avanti questi del PD in queste elezioni che hanno fatto la settimana scorsa. Che cos'è che hanno fatto, vorrei capire, cos'è che hanno vinto su 15 regioni, cioè ne ha 10 la destra ne ha, e gli altri 5 sono, anzi prima erano 13 a 7, hanno fatto le elezioni e sono 15 a 5, ti puoi immaginare, e loro stanno cantando vittoria, ragazzi. Ma cosa credi adesso che i parlamentari che abbiamo votato per tagliarli dal Parlamento, tu pensi veramente che li taglino? Lascia perdere, sono 30 anni che stanno parlando di tagliare il numero dei parlamentari e anche dei senatori, non l'hanno mai fatto e non lo faranno mai, nemmeno questa volta che c'è stata la riprova del referendum, non lo faranno mai. E poi bisogna avere sempre, se tagliano le persone magari valide invece che quelle che non valgono, perché anche lì c'è Manfrina, anche lì c'è, adesso dovranno abbassare anche lo stipendio, se fare il referendum per abbassare lo stipendio io voto sì. Figurati se si abbassa lo stipendio, casomai se lo aumentano, aumentassero fanno in fretta, capita, se avevano deciso di togliere il vitalizio, molto c'è cioè, durato, se l'hanno subito rimesso, subito, immediatamente, una parola, qua guarda adesso il presidente dell'Inps, 60.000 euro al mese, all'anno prende, adesso lui di sua spontanea volontà si è aumentato a 150.000 all'anno, ma a te la rendi conto, ma dove vanno a finire i soldi degli italiani, in mano a questi ladri? Da 60.000 si è aumentato lo stipendio a 150.000, una cosa vergognosa adesso, poi chi gli ha dato il permesso di aumentarsi lo stipendio? Questo è il presidente dell'Inps, quello che non fa altro che criticare i poveri pensionati, tipo di Graziano. Sì, mi hai tolto le parole alla bocca, te lo so per dire io. E niente, si è aumentato lo stipendio e ci sono casse integrati che aspettano ancora la cassa integrazione, ci sono disoccupati, ci sono gente che ha bisogno, lui si aumenta lo stipendio così in scioltezza, capito? Adesso la massa di figli di Umba. Sono una massa di ladri, avanti l'amico. Sono una massa di curruzzoni, per carità di Dio, lasciamo perdere. Per carità, che vergogna, che la vedo aumentare il mio pegliato. A parte il fatto che era già un'esagerazione lo stipendio che prendeva, 60.000 euro l'anno di stipendio. Cosa maledizione ne fa tutti questi soldi, questo passando? E poi si aumenta a 150, quasi tre volte se l'ha aumentato la cifra dello stipendio. Infatti dice, il governo dice che sta indagando. E cosa indaghi? Ma se siete tutti quanti onorizio siete tutti d'accordo, cosa indaghi? Perché non lo sappiamo che siete tutti uguali, per carità. Ciao a tu. Buonasera a tutti, buonasera. Fanno schifo, fanno, per carità, non li posso vedere mancuno. Una massa di delinquenti sono e basta. Per carità, che vergogna. E la gente vivendo a 400 euro al mese di pensione e anche a 250, perché c'è gente che prende 250 euro di pensione al mese, ma può vivere uno così, sì. Se in mano a questi delinquenti, in belle mani siamo, vai già. Faccio pagare in tasca a bambetta che ci dirà, per carità. Adesso sta arrivando anche la tassa mondetta in giro, quindi questi pensionati qua come fanno? Vabbè, tu mi dirai ratizzata, però cavolo, non li bastano lo stesso, se li pagare a più, devi pagare questo, devi pagare l'altro, che fate tutto così, la non pagano niente da comparire. Tu hai pagato 250 di tassa mondetta, io ne ho pagato 450 e 6.000 di tasse, non uno, 6.000 euro di tasse ho pagato io quest'anno, tanto badate in un'idea, tu mi dirai, ma come mai? È così, è purtroppo così, per dire, no, ma comunque, avanti Antonio, lo riprende, vai già. Oh già, me lo puoi dare un controllo radio e Santiago? E la radio è buona. Santiago, prova. Vedo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 6, 9, 30 quasi. Giulio, da te dove sto arrivando? 7, è la radio più forte della mia. 7? Ok, dai, no, stavo provando con l'antenna, però l'ho provata, ce l'ho dentro, capito? Ok, sì, Santiago 7, modulati 8, è la radio più forte della mia. L'antenna stai provando? La sto provando all'interno qua dove stava andando. Vabbè, stazionaria comunque non è, no, l'ho giusto, sono entrato giusto a vedere se stava funzionando bene, se c'era la stazionaria. Ok, va bene, dai, giù, così la tiro su giù in campagna. La tiro su giù? Ma la Game Master? L'ho costruita e penso che vada bene, stazionaria non ne ha, quindi dovrebbe uscire benissimo. Capo, se hai messo le misure giuste già esce bene. Con la canapesca le mette. No, ancora, no, adesso ce l'ho dentro casa in terra, capito? La sto provando così, è stazionaria, non ce n'è. Quella lì è un'antenna che stazionaria non è da, è come quella che Giulio, ma c'è l'originale anche Giulio. Però Giulio ha fatto anche quella come l'hai fatta tu. Questa l'ho costruita e va bene, stazionaria non è niente, proprio neanche si muove l'ago, e devi considerare che ce l'ho all'interno io, dentro casa. Ma l'antenna lì bruci la buona in terra, se la metti in terra esce lo stesso, perché è un dipolo praticamente. E infatti io ce l'ho in terra. E qua già arrivi forte, dai, qua arrivi bene. E magari da tre parti, no, ma tu sei vicino a casa, quindi, ma dove sei, in campagna o a casa tua? No, sono a casa adesso già, la sto provando a casa, capito, dentro. Ah, sì, ma già va bene, dai. Non lo so se è entrato Marco, Marco ci sei. Marco era passato su quella alle 10 insieme a Gianfranco. Ciao Franco, io sto facendo bene, non c'è problema. Però sei attento perché se c'è problema non è. Vedi un po', la canna fresca, comprala buona, possibilmente, e rinforzala, così almeno sei tranquillo. Perché si sa, la canna fresca è una cosa fragilissima, ma rinforzata in una certa maniera già può reggere. Tanto bene, a me è migliorata fin quando ho deciso di cambiare. Praticamente due anni e mezzo l'ho utilizzata con quella canna da Decathlon, che tra l'altro è sottilissima, non è niente, era una di quelle canne da fiume, che si usano nei fiumi. E poi ne ho anche un'altra, ne ho un'altra che avevo fatto da poco, e ti ricordi, mi sembra che a Gianni gliel'avevo anche fatta ascoltare, e l'avevo messa così esternamente con un altro volante, il filo, però era tutto volante, eppure funzionava lo stesso, ma la devo completare per Benino. Ok, avanti già. Metti nel Murinello che funziona di più. Non si manca per comprarlo, per cui che problema abbiamo? Metti nel mulinello che è più pesante, funziona di più. Funziona sì, soprattutto quando non riesci a comprare un mulinello, che problemi ci sono? Anda bene, se no abbiamo un gettito di cemento in mano, dentro, e così si rigidisce bene. Io ce devi comprare un mulinello, prendi i mulinelli da Gosu, come si dice, a Portobello. Lo so, ma a me non me ne serve le mulinelle. vabbè, comunque, ognuno si arrangia con le sue forze, con le sue capacità e soprattutto con le sue idee. Avanti Franco. Infatti io sto dicendo a Franco, non sto dicendo a te. Aiuta Franco. Per essere più forte l'antenna, l'attacco mulinello giotto e funziona bene, visto che è una canna da pesca. Ecco, lo riprende, vai Gianni. E anche poi magari ci sarà anche qualche altro materiale Giulio per poterla costruire ancora meglio. Tipo, cosa ti posso dire? Quel materiale che usano elettricisti, roba del genere. A produttore se c'è una ditta che fa tipi di tubazioni, plastica, eccetera, eccetera, la ditta, non so se la conosci. Ah, sto uscendo, sì, buonasera. Non per me, dai, mi stavo ascoltando, però... Sto uscendo, buonasera. Perché sto... Ce la risentiamo alle prossimine, o più tardi. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo, buonasera. Avanti, Claudio, buonasera. Pensavo Giulio mi avesse riconosciuto, buonasera a tutti. Quello va bene, va bene. Canne da pesca. Canne da pesca. Va bene. Andiamo tutti a pescare. Io sono andato anche ieri. Sono andato a pescare alla Conad però. Per cui faccio la casa 150 euro, voglio la casa in chili. E dunque va bene, per tutta la settimana sono a posto. E allora, hai speso un sacco di soldi. Non ce l'ho con la possibilità, allora prendo Starretto, ho speso 5 euro e mangio lo stesso. Vai già. Anche Claudio, fatta arrosto e mai senza la muglia, poco è buona. Io me ne mangio un bel, quando le facciamo all'aperto sono ben buone. E adesso ho solo un po' di tempo che non vado al mercato giù. L'ho comprato anch'io il pesce. Claudio. Alla Conad, non alla Conad, alla Crai, vicino a casa, che lo vendono, non era abbastanza fresco, invece io lo conosco, era abbastanza fresco, ho comprato un po' di orate e due trotte salmonate, e in più mi sono comprato le cozze, ho fatto la spesa generale di pesce. pesce, dai, perché sempre mangi a grandi tu. E poi il pesce fa bene, c'è qualcuno che chiamava, non so chi sia, il pesce fa bene, no, non ne mangia nessuno qua, a me piace vedere i fritti e basta. Allora Giulio piace la ragosta e quindi ha speso 150 euro e va bene così, ognuno fa quello che vuole. Avanti Giulio, fai girare, guarda che c'è uno che, come si dice, che stava chiamando. Avanti l'amico che stava chiamando. Buonasera a tutti, dai, Emanuele da questa parte, ciao Giulio, Claudio, Gianni e compagni. Volevo solo un piccolo controllo che ho messo un po' sull'antenna e voglio vedere se ha cambiato qualcosa. Vai Claudio. Già va bene l'antenna di Luca, potete dirmi. Non so, se sei a casa tua sei fortissimo, il segnale è anche più alto di quello di Gianni. Sei 9 più 20. Anche più alto di quello di Giulio, Giulio è 9,15, 9,17, cosa del genere. 9 più 20, ma... Ok, grazie di tutto, dai, riprendete pure. Va bene, ciao. Sai che sei un segnale di Luca. Va bene, io, a me un controllo mi hanno mandato, poi può essere pure a casa di Giovanni Antonio, Gianni Giacuglio. Questo è il segnale, questo se ha detto che ha messo l'antenna. Va bene, vai già. Qua è 9,30, qua è 9,30 spaccata. Va benissimo anche la radio, ma mi sembra che non è la radio sua perché lui c'ha la radio più amplificata. Non lo so, a me un controllo mi ha chiesto, un controllo gli ho dato, 9 più 20 radio 5. Ehi, vedi adesso com'è, ho già, la modulazione ha cambiato, più amplificata. Ehi, ok, va bene, dai, riprendete pure, grazie ancora. Pagata, ciao, ciao, ci sentiamo. Con la nuova questa, questa greca, se stai andando a qualche trappa, passerò un po' di X. Oh Giulio, ma di chi si canne la pesca ancora n'hai? Non ce n'è più una. Ma me la tengo però. Comunque, vai a andare a recato e me ne saranno un bel. Dai, Daneo, naggio un armadio di canne da pesca. Ciao Claudio, buonasera, che altro c'è, boh? Ma vuole da 8 metri, mi fra. C'ho la bolognese qua. Aspetta, la canna come si deve. Me la può vedere Luca, perché lui usa roba buona, non roba di Decathlon. Mi chiede la Decathlon, sono di bambino, sono, perché ci sono le canne buone, naturalmente costano un po' di più. Beh, fate fare la Luca, l'antenna e siete tranquilli e pacifici e così siete anche tranquilli nel modo che funziona, perché sappiamo che funzionano bene. Calibrate in tutti i sensi, non solamente in fattori stazionari, eccetera, in tutto e per tutto. Metti la portante Giulio un attimo. Ecco qua. C'è un bel di alternata. Lo so, c'è il telefonino che sta caricando qua, c'è l'alimentatore del telefonino che è vicino. Ah, quindi sapevi già, no, perché non ti ho mai sentito in questa alternata, pensavo che avessi qualche problema in bassa tensione. Ciao Fra, buonasera, ben ascoltato. Ciao Cla, dai, contrattando il rapporto, 59 più 20 sta arrivando qua Claudio. Vabbè, adesso io la sto provando provvisorio qua all'interno, poi la metterò giù in campagna. Già va bene, 9-10 sì qua, segnale buono rispetto agli altre volte, è molto, molto buono, eh. Sto ascoltando con 9.50, sto trasmettendo con 9.50, comunque vai benissimo alla grande. Riprendi Gianni. Ma quindi Fra, c'è solo il filo in terra, non hai messo dentro la canna ancora? L'ho buttata in terra, la sto provando all'interno di casa, l'ho buttata in terra sul pavimento, capito? E la carica l'ho legata alla finestra. Ho capito, vabbè. Ah, diciamo proprio lo stai usando come un dipolo, taglio un peso. E vabbè, comunque, te l'ho detto, alla RIT vengono diversi tipi di tubi, eccetera, eccetera. Potresti costruirtela anche con quelli. Bella rigida, ma diciamo che col vento è meglio che sia un po' flessibile, perché Caterina ha fatto quel vento, ne ha folata, ci piegava l'antenna, ma sempre poi ritornava al punto suo, una volta che la folata finiva ritornava al punto suo, non rimaneva piegata. Lo so, è una bella antenna, però io preferisco la Mantova 1 a livello di antenna. E vabbè, dipende sempre dove sì, perché a me i curracci mi danno sempre i fasciati radiali, quindi mi sono rotto le scatole, me l'ho presa così per quello. Vabbè, comunque questa qui è un'antenna valida, non c'è problema, è una bella antenna. Sì, non lo mette in dubbio, ho Gianni. Va bene, ma io ce l'ho anche la matrica 5, la pitto. Adesso come se migliora il tempo ce la piazzo. A me non c'è radiali mai fasciato e chi c'è della Mantova Turbo, quelli della Mantova 1, della Mantova 5 non ne ho mai perso, né uno, e le curracce non me ne hanno mai fasciato, mai e poi mai, e gli storni soprattutto, quello che ho visto io, c'è una fotografia Massimiliano che ha fatto lui, avevo l'antenna completamente piena di storni, completamente, ce ne sono stati a migliaia. Quando ce ne sono andati l'antenna era perfetta, erano sulle direttive, sulla Mantova, tutte le antenne che c'erano erano tutte completamente piene di storni. Capito Gianni? Quindi lì è un problema, non lo so perché li sfasciavano i radiali. Io gli unici radiali che mi hanno rotto, che hanno iniziato insomma, ne ho perso quelli della Mantova Turbo, quelli in alluminio, quindi in fibra a me non è mai successo niente, ecco perché io ho rimesso la Mantova 1. Riprendi Giulio. Ma perché quelli in fibra non li rompe quelli in alluminio. Quelli in fibra si vetrificano e basta. Già, io te l'ho detto, c'è un prodotto per trattare, Giulio forse già lo conosce perché insomma anche nel mestiere suo ci sono dei prodotti per trattare il legno, come sono prodotti per trattare la resina, per trattare la plastica. Io tu immagini anche Gianni che ho la 510 10 anni sul tetto, la 510 è praticamente lo stesso materiale di quella della Game Master, mi sembra. Non penso che sia diverso, bianco così eccetera. Io quando l'ho montata, prima di montarla, gli ho dato un trattamento sopra che è uno spray per la plastica e deve vedere, rimane sempre lucida e praticamente non si disfa. La stessa cosa, hai visto quei radiali che avevo portato io a te, quelli li avevo trattati, erano perfetti, io me li ho messi dentro una busta e me li sono conservati. Gli ho ridato un'altra pulitina, gli ho ridato nuovamente il trattamento per essere ancora più forti. Non ci sono mai, ma io la mia l'ho spostata, la Mantova da una parte all'altra, i radiali li ho smontati, li ho puliti con lo straccio, non c'era niente attaccato, né resina né nulla, perché c'è questo trattamento. Non so che materiale sia, cos'è Giulio? Un materiale plastico che praticamente isola la resina, cos'è? Sì, è un materiale con una specie di plastico, sì, che appunto riesce a mantenere la fibra soprattutto, non la fa sfogliare, in poche parole. Sì, ma ce ne sono tanti materiali che vanno bene, ma io la verità si dica, ce l'ho questa e sono contento. Non ero contento in parte della Mantova Turbo perché aveva i radiali e fischiava la notte. E la mia è intera l'antenna, nuova la Mantova Turbo. Sono da 10 mm i radiali, sono lunghi 1,60 m e sono vuoti. E quando c'è vento suonano. E per quello che l'ho tolta. Eppure l'ho tenuta 3 anni attaccata, piazzata, e qui ce ne sono dei bei piccioni e balle varie, la mattina se vedessi soprattutto l'estate veniva una mandria è andata sopra il radiale, eppure non solo li hanno rotto ma non li hanno nemmeno piegati, sono perfettamente dritti come il giorno che l'ho piazzate, per cui va bene così. Adesso ho questa e questa mi tengo, perché, ripeto, sempre per una questione di silenzio vado dalla notte, per il resto non ho niente da dire, la Mantova Turbo andava benissimo, ma veramente bene, forse meglio anche della Game Master, forse nel senso perché era piazzata la parte più alta e probabilmente qualche quantità in più rendeva, però è da fare un confronto. Avanti Gianni. Ma qua ci sono le signore che danno da mangiare i gatti. Cosa succede? Quando li mettono da mangiare, le cornacchie scendono a mangiarsi la roba e poi se le vanno sulle antenne, capito? E se non le avessi viste io, Claudio, non ci avrei creduto. Sull'antenna della buon'anima di Torre la Verde, l'ho vista io da casa, la cornacchia che si dondolava a pancia in giù, praticamente si dondolava sul radiale. Sì, lo usava come se stessi giocando, ecco. Si metteva lì giù e si muoveva il radiale e si dondolava. Cazzetto, già glielo aspetta quel radiale. Sono stato a guardare fino a quando se n'è andata. Ma lì il fatto è che è più popolato di cornacchie proprio per questo motivo, perché ci sono i gatti, li mettono da mangiare, le cornacchie ne approfittano e vanno a mangiare, capito? E poi se ne salgono sul tetto, capito? Ma poi magari l'antenna era anche vecchia, la mia aveva già 12 anni, capito? Avevo già sceso una volta per pulirla, eccetera, e tutte le cose. Sì, tu mi dirai, la mantova non invecchia mai, basta pulirla e farla, però sempre il materiale. Il materiale si usura, dai. Oh, se mi avete chiamato sono andato a chiudere, abbassare a tendere il poggiolo, cazzo, un'acqua che sta facendo allucinante. Di nuovo, qua no, ancora non è arrivata. Minchia, c'è l'aria nera, un'acqua, sembra uva, ho dovuto abbassare la tenda del poggiolo, perché sennò l'ha tutto pulito stamattina, mia moglie era tutto pieno di terra, di foglie di alberi dal vento, mamma mia, riprendi Giulio. Sta piovendo lì da te, sicuramente arriva anche qua. Ehi, mai 5 minuti, ho scritto. Che sciuga, mi ha detto, abbassami la tenda veloce. Perché sennò raga, di nuovo tutto il poggiolo. C'ho la tenda quella rigida, capito? No, ma siamo fatto l'altro l'anno scorso. Perché mi aveva spezzato tutti i ganci di plastica, adesso li abbiamo messi tutti in ferro i ganci. Sì, Giulio, quel problema me lo faceva anche a me, anch'io, se non, io l'ho tolta perché mi avevo le scatole piene di cambiare radiali, ogni 2-3 mesi andavo al brico, prendevo la misura dell'alluminio, lo tagliavo a misura, le mettevo il cappuccetto e radiali nuovi, alla fine mi sono stufato, quando ne sono scesi quasi tutti, mi pare ne erano rimasti da 8, mi pare ne erano rimasti 3, ho detto beh mi sono stufato e ne la tolgo. Ed era funzionante perché tutto il piantone intero lavorato a Fabrizio che ci aveva fatto una verticale multibanda, capito? Non so se ce l'ha ancora. E basta, il mostro l'avevo tagliato e fatto a pezzi. E avevo comprato la mantova 1, e ho messo nuovamente la mantova 1. E mai non ha più fischiato, più, perché è l'alluminio che fischia, non so le direttive mie quanto fischiavano. Io la tre elementi l'ho tolta prima dell'altra, perché l'altra c'è i radiali un pochino più corti, qui con i radiali lunghi, non so quanto fischia l'alluminio, è allucinante. E infatti ne l'ho tolta la tre elementi. Capito? Solo per quello, perché se non sono antenne buone, quanto va turbo è un'ottima antenna, poi il materiale è buonissimo, già io l'ho tutta ripulita la mia, con la lana d'acciaio, l'ho fatta lucida lucida, gli ho messo tutto il grasso e vaselina nella bulloneria, boh, è tornata nuova come prima, ma ogni 4 o 5 anni io faccio quel tipo di manutenzione, perché la posso smontare da solo, la tolgo, la abbasso, capito, è facile da me, non è difficile. Chi è che voleva entrare sotto Giulio? Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Oh, sento un fischio sotto di te, qualcuno forse voleva salutare o entrare, ma non ce la faceva a passare. Capito già. Poi, ripeto, io sono solidale con tutti, io antenne ne ho provato tante, posso dire che qualsiasi tipo di verticale per l'uso che ne facciamo noi è abbastanza ottimo. Questa che avete voi io l'ho conosciuta praticamente sul così al computer, perché non sapevo neanche che esistesse questa Game Master. E poi l'avevo vista la Salvatore, la prima che è stata montata a Sassari c'era la Salvatore, capito? E boh, però sono antenne che funzionano bene, che vanno bene, non creano problemi. E a Sandro lì si è rotta e sappiamo il perché non va tirantata. Io ripeto, la mia è quasi 7 metri ed è a 40-50 metri d'altezza, quasi, quindi figurati, e il materiale è uguale a quello, a 510 Giulio il materiale è uguale a quello lì, no? Eh sì, in effetti è così, ma io sinceramente, quindi per prudenza non ho fatto altro che rinforzarlo, dove ci sono i collegamenti fra i vari elementi della canna, ho messo un pezzo di tubo da 30 cm, 35-40 più o meno, e quindi almeno ha un sostegno superiore. Poi se no, per pazienza, non è la fine del mondo, e o la ripariamo se è possibile oppure ne compriamo un'altra. Però a me il fatto di sentire questo fischio la notte con la manta a tubo, uia, l'arma per lì, io stavo piuttosto pensando alla cosa di comprare i tubi di alluminio, anziché farli da 1,60 m lungo, e stavo pensando di fare l'esperimento di tagliare magari a metà, a 70 cm, 80 cm, come quando avevo la Stellar, che la Stellar ce l'aveva addirittura 16 di radiadini, no 8, no, come quelle, ne aveva 16, eppure non fischiava, forse perché erano corti, perché erano da 70 cm, questi sono da 1,60 m, e c'è troppa vibrazione nel vento, ecco quale problema. E io stavo pensando a quello, per non rovinare questi originali, mi compro 8 stecche, anzi 4 mi bastano, 4 stecche di alluminio da 10, e posso tagliare a metà e ci metto quelle, e vedo un po' la resa, come se è uguale o se va bene, o se c'è un problema, non lo so, si può provare anche a fare quello, o qua. Esatto. Sì, io mi pare, lo sai, che ad un certo punto avevo adottato quel sistema lì, e l'avevo tolta perché però non fischiava. Allora mi sto ricordando che non fischiava, fischia appunto perché sono un bel lunghi, capito? Se tu li fai più corti non fischiano, fischiano perché sono lunghi, maledizione, e siccome sono a circonferenza, no? Il vento fa tipo un mulinello in mezzo agli tiradiati, è solo per quello. Sì, addirittura uno che costruisce antenne, non dico il nome, mi aveva detto: sai cosa devi fare? Puoi lasciare anche la stessa misura, compri la guaina che entra dentro e li metti la guaina, la rete leva, assisti l'acqua. Allucinate. Li metti la guaina all'interno e poi il cappuccetto alla fine, e dice che secondo lui non fischiava, Giulio. Sì, è possibile, magari riempendo con qualche cosa dentro i cappuccetti, ce li ho sempre, c'è tutto. Se ti sto dicendo che è nuova, l'antenna mia è nuova, ci sono tutti i cappuccetti nei radiali. Addirittura poi ci sono tutti i cappuccetti dalla parte dove si infila attaccato al piattello, e poi c'è anche il cappuccetto per coprire il PL, e c'è una cosa che è nuova, cosa vuol dire nuova? E l'ho pulita, è diventata lucida, è un peccato anche venderla a me.